chance won't work on you. Got my mojo working, but it chance won't work. I spin the thread and dynamite, drink nothing, folks, but that is night. Back in that exactly where the brothers do the back and the women will be wacky woo. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I do I do I do I do I do I do I do I do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. C'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile. Yeah, mama, I'm gonna start a reading saying you've been out boogie woogie. There's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that a while ago? Yes, when I come in, who would I be? Crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Whiskey 3. Ben trovati. Stasera, caro Alessandro, serata fredda e ventosa, quindi abbiamo già sul web spronato a non uscire. Basta sta stagione dello stadio sempre in giro, affaché, fate i bravi ragazzi, stasera state con noi che abbiamo tanta buona musica. E in palio cosa abbiamo, Alessandro, stasera, che snoccioleremo meglio dopo, eh? In palio due biglietti per il fantastico concerto di questa sera, lo saprete tutti, un grandissimo evento, una star internazionale, BB King, all'Arena di Galloro. I biglietti sono partenti, sarete comodi in prima fila. Certo, più un pass per il backstage. C'entra pure il backstage a Galloro? C'è posto, dici? No, non c'è posto niente backstage per voi. Va bene, quindi insomma, lo sentite, la cazzata in canna ce l'abbiamo stasera, quindi concentriamoci un attimo sulla musica. Va idea, Alessà? Sì, allora subito con la musica. Infatti è una sera fredda e allora noi apriamo con un po' di cool jazz, jazz freddo del pianista Lenny Tristano in coppia con il sax alto di Lee Konitz. Lenny Tristano era un pianista italo-americano non vedente, un musicista meraviglioso che è stato riscoperto negli ultimi anni. Noi ci ascoltiamo una sua interpretazione di This Foolish Thing, che è uno standard di Jack Strait e Harry Lee, una versione molto bella dal vivo a New York nel 1955. Allora, Lenny Tristano con This Foolish Thing. Thank you. Vabbè, parlavamo di freddo, di intemperie estive qui a Radio Default. E a questo punto, se hai cominciato tu col Cool Jazz, caro Alessandro, ti rispondo con un pezzo che si chiama proprio invece Cool Blues, del nostro amico e frequentatore di Radio Default, Charlie Parker. E amico di Charlie Parker era Miles Davis, che negli anni 50 aveva un famosissimo quintetto e aveva pubblicato questo disco, Miles Davis insieme a Thelonious Monk. Il disco si chiama Miles Davis and the Modern Jazz Giant, e ci ascoltiamo da questo disco una traccia che si chiama Swing Spring, e dove suona appunto a pianoforte insieme a Miles Davis suona Thelonious Monk, e spicca la presenza di un magico vibrafonista che era Milt Jackson, un grande vibrafonista jazz che sono sicuro piacerà ai nostri ascoltatori. A noi sicuramente lo adoriamo perché è bravissimo. Sì, e allora il pezzo è... Una cosa, cioè stasera, finora queste tre tracce cioè, riguardano tutte o temperature o stagioni, ma è voluta sta cosa perché siamo fighissimi o siamo dannatamente fortunati? È una cosa inconscia, è venuta spontanea, quindi Miles Davis, lo spring della swing, lo swing di primavera, buon ascolto. Thank you. come fischiano stasera le casse di Radio Default. Buon segno, buon segno. E adesso dopo stasera abbiamo tantissimo jazz, e quindi che facciamo? Comunque qualche traccia blues, caro Alessandro, magari la passiamo un po' così per intervallare un pochino, invento parole, come sentite. E allora, già passati da queste parti, ritornano il John Lord Blues Project e ci ascoltiamo la loro versione di uno straclassico della musica blues, che è Uchi Kuchi Man, su Radio Default. Gypsy woman told my mama, before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun. Make all you pretty women jump and shout, so the whole world can see. Gonna mess with you. Take all you women by the hand, so the whole world can see I'm your hoochie coochie man. I'm here. Everybody knows I'm here. Yes, I'm your hoochie coochie man. Everybody knows. Yeah! Everybody knows. Everybody knows I am. Brividi di un certo spessore a Radio Default, parlavo proprio, vabbè, facciamo Radio Verità, ne parlavo qui con Pindaro di questo disco, glielo stavo consigliando perché, vabbè, vi è stato già detto i tempi, però magari ascoltatori più distratti o nuovi ascoltatori non l'hanno sentito. Questo è stato praticamente uno degli ultimi live di John Lord insieme, vabbè, una band strepitosa tra cui compare, scusate, mi avete pizzicato pure con la mandorla gentilmente offerta da Radio Default, mi avete pizzicato col sorcio in bocca. E niente, c'è in questa formazione Maggie Bell che da critici eccetera insomma è definita praticamente la Janis Joplin europea. E quindi sì, disco di grande spessore, ti consigliavo, che noi l'abbiamo già passata, vedi Pindaro, sei stato distratto, non ci hai seguito, l'abbiamo già passata da queste parti, una splendida versione di Lazy, brano dei Purple. Alessandro, che ci racconti? Racconto che le strade di Whiskey Trip procedono anche in maniera laterale, deviata, circolare. Allora ecco che dal blues si può arrivare girato l'angolo al free jazz. Il pezzo che abbiamo si intitola Black Woman, ed è Black Woman è il titolo del primo disco di questo chitarrista free jazz che si chiama Sonny Sharrock. E dedichiamo a Pindaro questo pezzo che sono veramente molto particolari le sonorità che tira fuori dalla sua chitarra Sonny Sharrock, che quindi Black Woman è il titolo del pezzo, è il titolo anche del primo album, dove alla voce c'è una grande vocalist che è la moglie di Sonny Sharrock, era la moglie di Linda Sharrock. Il disco è una sorta di riscrittura del genere blues gospel alla luce delle sperimentazioni e di una ricerca di una nuova timbrica tipica del free jazz. E allora ci ascoltiamo lui alla chitarra, Sonny Sharrock, alla voce sua moglie Linda, e il pezzo è Black Woman. Dicono che questa traccia era del 70 qualcosa. Ricontroveremo dall'archivio, caro Alessandro. Beh, vabbè, siamo entrati allora con questa. Che fa Alessandro? Mi fai sparire la playlist? Qua mi fai scherzi sul computer, Alessandro. Niente, dicevo, siamo in questa fase un po'. Un aggettivo? Free, vedi, Alessandro, io ci posso sempre contare su queste cose, tocca dirlo. E vabbè, dai, ci spariamo. Tempo che lo trovo, stasera stiamo proprio così, proprio non professionali. Vediamo, intanto magari vi sale un po' di suspense nel mentre, o magari anche no. Non la trovo, Alessandro. Il weather report, io da sti ragazzi. Dici, gli piacciono? Karaoke stasera, whisky trip. Non ci sono più nella lista, ma adesso li troviamo. E ecco in arrivo Weather Report con Birdland. E prima traccia del loro capolavoro Fusion del 1977, Heavy Weather. E naturalmente al basso c'è un certo Jaco Pastorius. E allora buon ascolto. Thank you. erano i Weather Report con la loro fusione di generi. A proposito di fusione di generi, di musicisti che hanno portato il jazz avanti nella sua evoluzione, e mi viene in mente sicuramente Anthony Braxton, che era compositore americano, nato a Chicago nel 1945, sassofonista, clarinettista, flautista, pianista e non solo, era anche un filosofo. E magni di tutto tu, si dice. una figura veramente geniale. E tra coloro che maggiormente hanno portato il jazz oltre i suoi limiti verso un'idea di musica totale, assolutamente creativa. Naturalmente noi queste cose ce le scriviamo a casa. Dai, che un po' così ci siamo pure nella vita vera, su, facciamo outing. È vero. Comunque Anthony Braxton, interessantissimo, dunque compositore, filosofo, fiatista. In questo pezzo ce l'ascoltiamo in trio, e sempre con il pianista free jazz ungherese, che si chiama Georgi Zabatos, e un compositore russo. Quindi abbiamo un americano, un russo e un ungherese, sembrano quelle barzellette. Dici la barzelletta. Un americano al sassofono, un ungherese al pianoforte free jazz e un russo, che è Vladimir Tarasov, al contrabbasso. E che dire, l'album è del 2004, parliamo di un lavoro piuttosto recente, quindi americani, ungheresi e russi tutti insieme con Black Toots di Anthony Braxton. amici, attenti perché siamo giunti al grande momento. Mettiamo adesso in palio i biglietti del grandissimo evento, il live di B.B. King all'Arena di Galloro. Dovete indovinare, poi ce lo potete inviare, potete telefonare qui in redazione, potete scriverci sulla nostra pagina, per posta, come vi pare, tanto c'è tempo, non affrettatevi troppo, insomma. Allora, il prossimo brano dovete indovinare l'alias di questo artista. Parliamo di un blues italiano, la traccia si chiama Che Babilonia, anzi più che un blues italiano, un blues napoletano proprio, perché proprio già c'è Pindaro che mi si è fatto, diciamo, che ricaccio, vedi? E allora, diciamo, quest'artista ha pubblicato queste cose sotto il nome di Joe Sarnataro. Allora, ce l'ascoltiamo e poi il primo che risponde vince i biglietti per la serata alla grande arena di Galloro. Ecco, allora, Che Babilonia su Radio Default. Yeah. Allora, siete accorsi in tantissimi a provare a vincere questi biglietti, leggendo i vostri SMS. Vedo allora Pavarotti, mi sa non è giusto, vero Alessandro? Poi vedo anche qualcuno dice Bill Cosby, ma è sbagliato. A seguire vedo anche Romano Prodi, no. Leggi anche tu qualche nome, scusa intanto. Allora, Franco Califano. No, Franco Fuochino. Mi sono andati vicini, ma non è lui. E ancora. Non possiamo dirlo, questo no. No. E Jimmy Ghione. Jimmy Ghione. Un disco con SBR 2009, mi spiace, vediamo se c'è ancora qualcosa che arriva. E ma anche qui hanno risposto con Enrico Ruggeri, Pupo, Vasco Rossi e Valentino Rossi. No, finora ragazzi va, nessuno ha indovinato. Il concorso è ancora aperto, speriamo di riuscirveli ad assegnare, se no ve li vendiamo in nero, insomma, se nessuno li vince e ce li togliamo così questi biglietti, o se no ci andiamo io Alessandro. Va bene, parlato del concorso, come, dove porta la nostra strada adesso Alessandro? Ma io, dunque, abbiamo passato la prima ora insieme, giusto? Sì, e allora io propongo una sosta, una piccola fermata, andiamo al bar, ma ci accompagna comunque la musica, ci fermiamo perché il pezzo è molto sognato, molto bello, che è Over the Rainbow, e di tanto in tanto, ogni tanto anche in Italia, anche noi italiani suoniamo dell'ottimo jazz, e infatti ci ascoltiamo Enrico Intra, che è un grande pianista italiano, insieme a David Lipman, che invece è flautista, insieme in duo dal vivo a Milano nel 2009 con Over the Rainbow. E allora buon ascolto e buon relax con questa musica. Thank you. Bravi Marco! Quanti applausi per Enrico Intra. E allora vabbè, per Alessandro è passato al pianoforte ormai, quindi glielo faccio anch'io un regalino, visto che si è andato 5 minuti a riposare di là, perché voi non lo sapete, ma viviamo giornate intensissime, siamo anche un po' dei supereroi nel tempo libero quando non facciamo whisky trip. E allora dai, gli regalo un Duke Ellington dannata, e dall'album Latin American Sweet, e ci ascoltiamo proprio Latin American Sunshine, quindi torniamo a sonorità un po' tropical qui a Whisky Trip su Radio Default. Latin American Sunshine, Duke Ellington, atmosfere sudamericane. Rimaniamo, voglio rimanere sì su questo tipo di sonorità. E allora avevo pensato a un pezzo di Herbie Hancock, che mi sembra che non l'abbiamo mai ascoltato, qualcosa di Herbie Hancock qui a Whiskey Trip, e decisamente è arrivato il momento. Herbie Hancock, che era pianista, tastierista, compositore, band leader, un protagonista assoluto del jazz e della musica degli ultimi 50 anni, dal post-bop alla fusion, dal jazz funk ad altre tipologie di crossover. Nel 63 Herbie Hancock cosa ha fatto? Pubblicava nel 63 il suo secondo disco, My Point of View, il suo punto di vista, appunto, sul panorama jazz della sua epoca, dove inizia, a nostro avviso, una riscrittura della musica e degli stili del jazz. E qui questo disco è accompagnato da chitarra, basso, batteria e una sezione fiati, sassofoni, trombe e tromboni. E ci ascoltiamo da questo bell'album Herbie Hancock con Blind Man. Buon ascolto e restate con noi. We'll be right back. E vabbè, siamo scaduti nel Latinos barra Tropical, confermi? E vabbè, senti, allora direi un classicone che però in questo momento ci sta proprio a pennello, per quanto ne pensiamo. Direi, che ne pensi di Intanto So Danzo Samba? È un ottimo disco, veramente ottimo per continuare su queste sonorità, su queste atmosfere estive. E allora, diciamo, sono un musicista. Vuoi dire tu? Digli tu se vuoi, eh? Ci tieni? Uno per uno. Allora, il primo è Stan Getz insieme a João Gilberto, ragazzi. E quindi su Radio Default, So Danzo Samba. Danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Samba. E in arrivo per noi, grandissimo Charles Mingus. E piace molto anche ad Antonio, che è il pezzo dal disco The Clown, un disco di Mingus del 1957, nel quale viene narrata la storia di un clown rifiutato dal pubblico fino alla morte. Sì, una storia decisamente triste, dopo. Ma invece il pezzo è bellissimo, è una splendida reincarnation of a bird. E allora davvero buon ascolto verso la fine di questa puntata, ancora un pochino insieme. Nel frattempo per noi Charles Mingus, Reincarnation of a Lovebird. We'll be right back. Continuiamo ancora con sonorità molto, un aggettivo Alessandro come prima ce l'hai, molto tropicali, molto spiaggia al tramonto, spiaggia a whisky trip e spiaggia al tramonto, grande, grande. E vabbè, allora arriviamo a lui, che è stato un sassofonista statunitense, jazzista virtuoso del sassofono tenore, considerato uno dei padri del bebop, ha fatto un percorso musicale costellato di collaborazioni preziose da Ted Dameron, Mingus, Armstrong, Gillespie, vabbè, molti altri. Parliamo di Dexter Gordon, aveva un suono particolarissimo, riusciva a ottenere un'armonia piena e spaziosa, caratterizzata pure in parte dal suo fisico imponente. la sua tendenza a suonare laid back, vale a dire dietro al tempo. E quindi ci ascoltiamo questa traccia favolosa che è Blue Boss. Thank you. soldiers keep on warring. World, yes, keep on turning them high. 'Cause it will not be, will not be, will not be for long. Will not be for long. Powers keep on warring while your people keep on dying. World, yes, keep on turning them high. 'Cause it will not be, will not be, will not be for long. Will not be for long. And I'm so darn glad he let me come and try it again. 'Cause the last time I lived it was a whole world of sin. Questo era un piccolo break con Ellen McGuine, era Higher Ground, cover di Stevie Wonder, e lei è una grandissima chitarrista di art blues psichedelico e insomma avete sentito con le vostre orecchie e poi cercatevela. E Alessandro, siamo in chiusura, io quindi intanto saluto tutti, vediamo che cosa, con cosa ci mandi a dormire, e con tutti voi ci ascoltiamo mercoledì prossimo. Sì, cambiamo stile per chiudere quest'altra bellissima puntata insieme. Abbiamo scelto il pianoforte di Bill Evans, ne ascoltiamo e alcuni pezzi, due pezzi in sequenza dai suoi dischi di debutto nel mondo del jazz. E il primo pezzo è I Love You di Cole Porter, e l'altro è sempre uno standard, Young and Foolish di Albert Hogdal, musical Plain and Fancy, e suonati nello stile sognante, tenero di Bill Evans, adatto ad accompagnarci in queste chiusure. E allora davvero buon ascolto con Bill Evans, e ci vediamo alla prossima puntata, o forse mandiamo un ultimo pezzo. Intanto godiamoci davvero Bill Evans, buon ascolto.

explain yourself to me. Because I'm your man and wife trying to start a family. I'm begging you, baby, cut out that off-the-wall jive. If you can't treat me no better, it got to be your funeral and my tribe. When I and your wife got together, it was on one Friday night. We spent two lovely hours together, and the world knew it was all right. I'm just begging you, baby, please cut out that off-the-wall jive. You know you got to treat me better. If you don't, it's got to be your view and my tribe. All right. Sinner. She can love to heal the sick, and she can love to raise the dead. You might think I'm joking, but you better believe what I say. I'm begging you, baby, cut out that off-the-wall jive. If you got to treat me better, it got to be your funeral, my tribe.